24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Ok di Fantozzi, Scaiola mantiene la riserva e è arrivato il primo sì al piano CAI per la nuova Alitalia. Spazzino invece che in cella, ma il disegno di legge per i lavori socialmente utili non piace ad AN e Lega che frenano in Consiglio dei Ministri. Alfano, basta ai benefici gratis. Domani il giorno delle dimissioni di Villari dalla Commissione Vigilanza RAI, promette il Partito Democratico, lui tace e a mediare ci prova anche Fini. Ora la Camorra vuole guadagnarci, dopo le minacce a Saviano, a Napoli sequestrati DVD contraffatti del film Gomorra. Aiuti all'auto per tutti o per nessuno, l'amministratore delegato di Fiat Marchionne dopo la Merkel, non si crei un dislivello tra l'America e l'Europa. Sono 14 milioni pendolari in Italia, per loro 400 milioni di euro di tagli nella finanziaria 2009, Stato e Regioni ci lasciano soli, ora denunciano. Gera Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, il primo sì è arrivato per il via libera, si dovrà attendere ancora qualche giorno, forse qualche ora, ma il percorso va avanti. Parliamo naturalmente di Alitalia e dell'ok al piano della compagnia aerea italiana arrivato oggi dal commissario straordinario Augusto Fantozzi. A chiedere invece ancora un po' di tempo è il governo, sempre in attesa anche del CDA della CAI che il 24 di novembre si pronuncerà sul partner estero. Cominciamo però allora da qui e cominciamo facendo il punto su questa mattinata con Francesca Malaguti. Ormai manca pochissimo, forse qualche ora, il via libera CAI per comprare all'Italia. L'autorizzazione definitiva la deve dare il commissario Fantozzi, che già questa mattina ha ricevuto l'ok dal comitato di sorveglianza, che ha valutato la perizia di Banca Leonardo, consulente finanziario del governo, sul prezzo dell'aviolinea e sull'adeguatezza dell'offerta di compagnia aerea italiana. Ora manca solo il sì del ministro per lo sviluppo economico. Non so se lo darò oggi, ha detto Scaiola, ma faremo in modo che entro il 1° dicembre ci sia il perfezionamento dell'acquisto. Sentiamo cosa ha detto invece poco fa al microfono di Roberta Pellegatta Gaetano Micichè, responsabile divisione Corporate and Investment Banking di Intesa San Paolo, che è l'advisor di CAI per la vendita di Alitalia. E mi è arrivato un SMS adesso, mi sembra che l'accordo in linea di massima è stato raggiunto, si aspetta adesso l'approvazione del ministro Scaiola e poi credo che l'operazione partirà. Sceglieremo il partner che ci assicura la partnership strategica di più lungo periodo. Intanto sono un centinaio al giorno i voli di Alitalia definitivamente soppressi rispetto all'orario consueto, una settantina in arrivo in partenza da Fiumicino. Ormai non ci sono nemmeno più fili alle biglietterie e ai check-in, né si registrano particolari ritardi. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Francesca Malaguti. E invece oggi a slittare in Consiglio dei Ministri, il Consiglio che c'è stato questa mattina, è stato un'altra norma, un disegno di legge anticipato questa mattina dai quotidiani, un testo che prevede la cosiddetta messa in prova degli incensurati, vale a dire lavori socialmente utili anziché il carcere per le pene sotto i 4 anni. Ma è già discussione con AN e Lega che all'interno del governo frenano. Ci racconta tutto Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. Quindi oggi al Consiglio dei Ministri era attesa la discussione sul decreto disegno di legge Alfano che, secondo quanto anticipato dai giornali, contiene una proposta che cancella anche il reato per i rei punibili con pene fino a 4 anni, a condizione che svolgano un periodo di lavori socialmente utili. All'uscita della riunione però il ministro della difesa La Russa ha spiegato che del provvedimento non si è parlato. Sentiamo La Russa al microfono di Francesca Malaguti. Ma no, quella è ancora una proposta tutta da esaminare, fra l'altro visto che oggi è stata anche letta male, quindi ne parlavo con Alfano, bisognerà prima che lui la formuli riflettere molto, insomma. La vera novità era l'altra, cioè che chi ottiene oggi la sospensione condizionale la incassa senza nessun obbligo di fare nulla, mentre con la sua proposta deve svolgere un lavoro socialmente utile che può arrivare anche fino alla stessa durata della condizionale, da un minimo di 10 giorni a 2 anni. Oggi Repubblica aveva messo in evidenza la contrarietà del titolare dell'interno Maroni, anche La Russa è apparso sulla stessa linea, sentiamo ancora cosa ha detto. Maroni ha reagito alla lettura, ha detto quando è così che ci mettiamo a inseguire, però forse bisognerebbe approfondire meglio il testo e poi leggerlo con attenzione, però anch'io la penso come Maroni, se la lettura è quella è difficile che si possa trasformare in un disegno. fa, però, ha parlato il ministro della giustizia Alfano, ha detto che il suo disegno di legge sulla certezza dell'applicazione della pena non era all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi e che comunque il principale punto del provvedimento è dire basta alla sospensione condizionale gratis. Sulla messa alla prova degli indagati, che è un istituto completamente distinto, ha detto il ministro, ha preannunciato approfondimenti. In sostanza, da quello che si capisce, come avete anticipato voi, le perplessità di AN e Lega sulla parte del provvedimento che potrebbe apparire come un'amnistia hanno indotto il governo a rallentare l'iter del disegno di legge. Per ora è tutto. Grazie Paolo Piacenza, noi però torneremo a parlarne tra poco con l'ex guardasigilli che già aveva avanzato questa proposta. Tra poco ai nostri microfoni Clemente Mastella. E Villari, che fa il tormentone politico? Se lo chiedono un po' tutti, il neo presidente della commissione di vigilanza RAI, su cui però pende questo accordo politico per un nuovo nome, Sergio Zavoli. Crancic sul giornale La Vignetta la vede così, c'è un Di Pietro che se ne va col dito alzato parlando a Veltroni e dice: mo sono Zavoli tuoi. E a riportare la pace ci ha provato questa mattina anche il presidente della Camera Gianfranco Fini, con quale esito? Elisabetta Fiorito. Ma le dimissioni di Riccardo Villari dalla presidenza della Commissione di Vigilanza RAI dovrebbero essere vicine, arriveranno probabilmente domani quando sarà convocata la stessa Commissione di Vigilanza. Infatti l'ha detto Villari, nel rispetto istituzionale, la sede propria per qualsiasi comunicazione è istituzionale e quindi la Commissione stessa. Le dimissioni poi sono state annunciate dal capogruppo PD al Senato, Anna Finocchiaro, PD ricordiamo è il partito ancora di Villari. C'è stata una comunicazione al partito di dice Finocchiaro, Villari si dimetterà, preso atto che si è raggiunto un accordo su Zavoli. Il direttivo del Partito Democratico al Senato, che doveva decidere eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di Villari, si riaggiornerà domani dopo la commissione, ma probabilmente a questo punto le sanzioni non arriveranno. Un tormentone, come avete detto voi, l'accordo ieri sul nome di Sergio Zavoli, ex presidente RAI, giornalista, ha ricevuto il sì di Silvio Berlusconi dopo la proposta di Walter Veltroni e dopo la rinuncia di De Luca Orlando dell'Italia dei Valori. Una rinuncia non senza conseguenze. Antonio Di Pietro ha accusato Berlusconi di corruzione politica e il Premier annuncia querele contro il leader dell'Italia dei Valori. E vedremo cosa succederà. Grazie Elisabetta Fiorito. E ora a Napoli, dove questa volta la Camorra ha deciso di contrastare Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, con una mano al proprio portafogli. La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno. 800 tonnellate. 800 tonnellate. Non è un problema. Arrivano da Forcella e fanno bella mostra in diverse edicole napoletane. Sono i DVD di Gomorra. Tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, il prodotto dovrebbe uscire il prossimo 3 dicembre e attualmente è disponibile solo in versione noleggio, eppure è già in vendita. Andiamo lì e basta. Boom, hanno fatto! Casano ce l'hanno tutte io. Sulla confezione c'è anche il bollino della SIAE che ne accerterebbe l'autenticità. Il film viene venduto a 6 euro da edicolanti senza scrupoli. Qualcuno di loro si difende affermando che è masterizzato dall'originale. I DVD di Gomorra vengono prodotti, come quelli di molti altri film di prima visione, nei laboratori clandestini gestiti dalla Camorra. Discutibile la qualità video, ma massima attenzione a tutto il resto. Dopo aver fotocopiato la copertina della versione noleggio, con un fotomontaggio è stata sovrapposta la scritta prima visione e la custodia accuratamente chiusa nel cellophane. Ed ecco in versione home video il Gomorra pezzottato. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Il 31 ottobre 2002, durante il terremoto che colpì il Molise, morirono sotto le macerie della loro scuola 27 bambini e la loro maestra. Nel processo di primo grado, ricorderete, furono assolti tutti 6 imputati. E questa mattina, nella caserma dei carabinieri a Campobasso, si è aperto il processo di appello. In aula non c'erano gli imputati, ma i genitori dei bambini, Ilaria Mancini. Buongiorno, è finito da poco il processo d'appello a carico dei 6 imputati per il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia. Si preannuncia come in passato un processo tecnico basato sulle perizie che dovranno stabilire se la scuola di San Giuliano crollò per gli effetti del terremoto o perché costruita male. Sotto le macerie della scuola morirono 27 bambini ed una maestra. Era il 31 ottobre 2002, per quella tragedia 6 imputati che oggi hanno preferito non presentarsi in aula, accusati di disastro omicidio colposo, un anno e mezzo fa furono assolti assolti con la motivazione il fatto non sussiste. Oggi è iniziato il processo d'appello ed occorreva trovare un posto adatto in grado di ospitare un discreto numero di avvocati e le oltre 100 persone costituitesi parti civili, e così i giudici del Tribunale di Campobasso si sono trasferiti nei locali della scuola dei Carabinieri. Un processo, quello d'appello, che il Comitato delle Vittime spera possa fare giustizia. Non è facile per noi stare qui, ha detto il Presidente del Comitato Antonio Morelli, che insieme a tanti genitori attendono da 6 anni una risposta al perché di quel crollo. Alcuni genitori hanno voluto indossare la maglietta con l'immagine dei loro figli. Gli atti del processo, ricordiamo, sono stati raccolti in un libro bianco dal titolo Il fatto non sussiste, giudicate voi. L'udienza è stata aggiornata il 14 gennaio prossimo e la sentenza è attesa per i primi mesi del 2009. Grazie a Ilaria Mancini. Dalla ricerca all'estero, sì, ma di medici italiani o comunque con ampia collaborazione anche italiana, arriva intanto la buona notizia di oggi. Bueno, pues ahora estoy mucho mejor de la operación. A parlare di nuovo in salute è Claudia Castillo, la spagnola di 30 anni che dopo una tubercolosi ha ricevuto un trapianto di trachea generato dalle sue stesse cellule staminali. L'organo è stato ricreato nei laboratori dell'Università di Bristol in Gran Bretagna grazie ad una speciale impalcatura sviluppata dall'Università di Padova. We did a transplantation of the trachea which has not done before in all the history of medicine. Un intervento di portata eccezionale eseguito in Spagna per la prima volta al mondo da un medico italiano. Tissue engineering where we created a trachea from a human donor. Abbiamo applicato una tecnica di bioingegneria usando l'organo di un donatore e i tessuti della stessa paziente che così non avrà bisogno di immunosoppressori contro il rigetto, spiega Paolo Macchiarini, chirurgo toracico dell'ospedale di Barcellona. Form of immunosuppression. L'intervento apre ora nuove speranze che nel giro di 20 anni possano essere riprodotti in laboratorio altri organi come fegato e cuore. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. E oggi è anche un giorno particolare per gli amanti del calcio, è il giorno del ritorno di Diego Armando Maradona, però in una nuova versione. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Eccolo qua, Diego Armando Maradona, l'ex mano de Dios, che stasera a Glasgow guiderà per la prima volta dalla panchina la nazionale argentina, proprio contro quegli scozzesi che gli sono eternamente grati per aver freddato con le sue prodezze, anche quelle di mano, gli odiati inglesi nella finale di Messico 86. Che dire di Maradona CT, che è un paradosso della storia, una contraddizione in termini, come un attore indisciplinato che diventa regista, come un anarchico che diventa primo ministro, come un incendiario che diventa pompiere. Tutto questo sulla carta, ma poi Maradona è Maradona. L'uomo capace di miracoli, la mano de Dios, il furto che diventa opera d'arte, il guizzo che supera la regola. 19 mesi fa i medici gli dissero che solo una vita di relax avrebbe potuto salvarlo dalle sue sregolatezze. E adesso invece eccolo qua, determinato, quasi freddo, con accanto Carlos Bilardo, l'unico allenatore che è riuscito, da calciatore, a farlo ragionare. Insomma, Diego, questa volta, prova a dribblare se stesso, l'ultimo ostacolo, quello più difficile, in una vita davvero spericolata. Voglio una vita, la voglio piena di guai. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:18, le notizie di oggi extra large. Ancora qualche ora d'attesa e poi l'Alitalia dirà sì all'offerta della CAI. Il commissario Fantozzi aspetta l'autorizzazione del ministro Scajola, che annuncia forse l'ok in giornata. Oggi soppressi altri 100 voli. O tutti o nessuno, i vertici di Fiat scendono in campo sui sostegni al settore dell'auto. Gli aiuti devono essere o per tutti o per nessuno, dice l'amministratore delegato Marchionne. La strage di Erba, Azuz Marzouk chiede 2,6 milioni di euro di danni per l'omicidio di moglie e figlio. In aula parla Olindo Romano. Il governo non vara il contestato disegno di legge sulla cosiddetta messa in prova degli incensurati, che cancella anche alcuni reati, elaborato dal guardasigilli Alfano. È una proposta tutta da esaminare, commenta il ministro La Russa. Noi ne parliamo con l'ex guardasigilli Clemente Mastella. E partiamo proprio da qua, perché come abbiamo già sentito il Consiglio dei Ministri oggi non avrebbe discusso quella che è comunque una proposta del governo, e cioè un disegno di legge del Ministro della Giustizia Alfano che prevede la cosiddetta messa in prova dei detenuti. In sostanza si tratta di lavori socialmente utili per i punti per i reati puniti con pene inferiori a una certa ai 4 anni, ma questa è ancora un'ipotesi, oppure comunque come aggiunta alla alla pena sospesa con la condizionale, insomma lavori socialmente utili insieme o in alternativa alla pena. Ne parliamo con l'ex ministro della giustizia Clemente Mastella, già annunciato, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, questa è una proposta che, come sappiamo, già era partita da lei. Vero, sì. Cos'era, il 2007? Sì, il 2007. Poco prima che cadesse il governo. Sì, ora non ricordo, siccome sono più legato alla caduta del governo che agli atti di prima, quindi non saprei dire con certezza quando si è verificato, però certo, l'unica certezza è questa, che di che si tratta? Abbiamo sempre il problema, come dire, non di scansare le pene, cioè la certezza della pena deve essere sempre un dato non rituale ma effettivo, vero, reale, però è anche vero che insomma si finisce a se stesso per non scontarla. Tutti quelli che dicono certezza della pena sono quelli che hanno lavorato perché la certezza non ci fosse, tanto è vero che il margine che uno rimane dentro che 2-3 anni, non più di tanto, quindi per essere estremamente chiari, a volte rimangono quelli che non dovrebbero e vanno fuori quelli che invece dovrebbero. E allora qual era il dato? Il lavorare, perché la condizione carceraria rimane una condizione drammatica e quindi tenere dentro, tenere in attesa permanentemente le persone diventa oggettivamente un problema. Questa ci sembrava una soluzione adeguata ad una serie di esigenze, cioè all'idea rieducativa, al dato di motivare quelli che erano dentro, certo stabilendolo per alcuni reati. Vedo invece che si va ai reati finanziari, come io dico sempre, io resto legato alla mia logica ai mercati lunari, non a quelli finanziari, quindi se altri sono più interessati a questo, anche in ogni logica, non dipende da me, cioè la mia è un'idea, diciamo, da tener conto di considerazioni veri, reali, che toccassero questa cosetta messa in prova. Mastella, secondo lei perché questo governo, con tutt'altra maggioranza, con tutt'altro ministro della giustizia ovviamente, ritira fuori il suo progetto ora? Ma guardi, mica è soltanto questo, cioè tanti altri progetti che vedo in giro, che, come dire, se io chiamassi il copyright una serie di provvedimenti sarei una specie di surrogato ministeriale, cosa che non mi tocca fare ed è giusto che io non sia, tant'è vero non ho, oggi è una delle rare volte in cui sono chiamato a rispondere di un fatto che mi tocca, nel senso che di una modalità che io intendevo stabilire precedentemente nel mio esercizio di gestione di governo. Però Mastella, c'è sempre un fronte molto trasversale che è contrario a queste iniziative. A suo tempo Di Pietro parlò di trasversali la giustizia sono sempre tanti. Certo, un tema che divide tantissime. Però non soltanto Di Pietro. All'epoca e come ritengo oggi che questioni di questo genere devono essere fatte in maniera propositiva a chi ha il governo. Però deve passare al vaglio dell'opposizione. Se si riuscisse a superare il quadro parlamentare con intesa e larghi cesura tra maggioranza e opposizione, la cosa migliore. Ecco, però il sospetto o comunque la critica che alcuni fanno, ora non, senza arrivare a Di Pietro che sta all'opposizione a questo punto, però anche all'interno della maggioranza, AN e Lega, da quel che abbiamo capito, temono che ci sia una sorta di amnistia per alcuni reati in particolare, reati dei colletti bianchi, corruzione, falso in bilancio, così è un colpo di spugna? Sarebbe questo provvedimento? Mi sente? Certo. Basta eliminare alcune tipologie di reati. Dipende se uno vuole favorire l'amico o invece ha un universo comprensivo di problemi veri che ci sono nel mondo carcerario e nel mondo della giustizia. Questa è una scelta, non è che dipenda da me. Se è una scelta per favorire qualcuno è un discorso, se è una scelta invece per favorire interessi legittimi, che sono quelli di persone che hanno questa difficoltà, o ripeto, la situazione carceraria che rimane esplosiva, allora è un discorso politico e di politica giudiziaria diversa. Proviamo a fare gli ottimisti. A suo tempo una parte del governo Prodi sostenne il suo progetto. È possibile che quella stessa parte oggi su un tema si trovi d'accordo col PDL o perlomeno con Alfano? Non lo so, non credo, sai per quale ragione? Io lo auspico molto e mi augurerei che fosse così, per la semplice ragione che magari quando c'è la contrapposizione violenta, oggi c'è tra maggioranza e opposizione, uno trova sempre l'altro che può dire 6 mesi fa mi ha intorbito l'acqua, cioè nel senso c'è un pretesto per discutere, insomma. Esattamente, un pretesto. La politica supera il provvedimento concreto. Cioè, fino a quando il dato di pregiudizio politico, direi ideologico, tra virgolette, supera la risposta ai problemi seri e reali, evidentemente finisce per essere così, quindi il pretesto, il cavillo viene anteposto a ogni altra considerazione. Spero che non sia così, ci sia un dato vero di discussione reale. Qual è la discussione reale? C'è una proposta, si affinino rispetto a questa proposta gli elementi come che turbano le coscienze dei più, che è quello di non agevolare alcuni e quindi i reati finanziari ma magari altri, e allora si vede. Senta, Lastella, lei ha fatto riferimento sul tema della giustizia a questa forte contrapposizione che c'è tra maggioranza e opposizione, ma non solo su questo tema. La commissione di vigilanza Rai, per esempio, insegna. C'è bisogno, dal suo punto di vista, penso di sì, di centristi come lei in Parlamento. Però le posso dire, ma certamente sì, le posso dire una cosa. Dove sarebbe, e oggi vado da cittadino, uno che è extraparlamentare, non ci sono in Parlamento, direi dispiaciuto, mi pare evidente, ma sono anche per alcuni aspetti contento, vista la poca consistenza del Parlamento. Ma non è un po' strano che si trova l'accordo, un'intesa tra PDL e PD, sulla, comunque alla fine sulla vigilanza, facendo pressioni varotive da quello che leggo, e non si trova una soluzione ai problemi che toccano i cittadini, non uno solo, non le questioni dei partiti, su una vicenda come cioè, quando ci sono le nomine si trovano gli accordi. Veramente singolare, cioè di come questi aspetti sono più fascinosi, cioè laddove c'è l'interesse o le convenienze si trova l'accordo, dove non c'è l'interesse la cosa non si trova l'accordo. Mi pare un po' strano, devo dire la verità. E con questo noi chiudiamo qui. Grazie. Bene, a voi le considerazioni anche agli ascoltatori. Grazie che avete Mastella. Lasciamo, voi tante cose. Lasciamo agli ascoltatori. Grazie all'ex ministro della giustizia Clemente Mastella. In un'aula di giustizia noi andiamo. Sì, andiamo a Como, dove è in corso il processo per la strage di Erba. Oggi l'imputato Olindo Romano ha reso le sue dichiarazioni. Ce ne parla Giovanni Capuano, buongiorno. Ebbene sì, buongiorno, oggi è stato il giorno di Olindo Romano. Come ampiamente preannunciato, l'ex neturbino di Erba è tornato davanti alla Corte d'Assise di Como per una dichiarazione spontanea. Romano ha parlato per 6 minuti esatti per precisare il rapporto con psichiatri e psicologi che in un anno si sono alternati nel suo esame e in quello della moglie Rosa Bazzi, e poi anche per spiegare il senso delle parole scritte in carcere sulla Bibbia. Non una rivendicazione, come aveva detto il pubblico ministero Massimo Astori, dice Romano, sentiamolo. In carcere, agli occhi degli agenti, agli occhi dei detenuti e di chiunque arrivava, io ero il mostro di Erba, pentito, ma sempre il mostro di Erba. Di conseguenza, gli scritti sulla Bibbia sono in linea col mio pentimento. È vero quello che è stato detto l'altro giorno, che alcuni sono stati scritti con rabbia. Sì, alcuni sono stati scritti con una punta di rabbia, un modo come un altro per sfogarsi. In silenzio è rimasta invece Rosa Bazzi. In precedenza, inizio udienza, era stato il legale di Azzuz Marzouk, Roberto Tropescovino, a leggere una lettera toccante del tunisino nella quale Azzuz chiede per i due imputati non più la pena di morte come inizio processo, ma un ergastolo senza Dio. Le richieste delle parti civili che hanno occupato tutta la mattinata, un risarcimento per 2.632.000 euro per Azzuz Marzouk e 320.000 euro subito come provvisionale invece per Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto che ha bisogno di cure e assistenza continua, ha spiegato il suo avvocato. Poi la famiglia Castagna, il loro dolore non ha prezzo, ha detto il loro legale Francesco Tagliabue, che ha detto ancora gli imputati dovrebbero ammettere quanto hanno fatto, questa sarebbe forse l'unica forma di risarcimento, smettere di cagionare altro dolore. Parti civili che sono state unite nel condannare la condotta processuale di Rosa e Olindo, lunedì toccherà alle difese. Grazie Giovanni Capuano. Voltiamo pagina. Nel centenario della nascita del grande scultore Giacomo Manzù, la moglie e i figli hanno deciso di dare vita ad una fondazione a lui dedicata e di aprire il suo privatissimo atelier chiuso dalla sua morte nel 1991. Il tutto sarà accompagnato naturalmente da uno spazio espositivo di oltre 10.000 metri quadrati che darà proprio ospitalità alle sculture. La vedova Inge Manzù, in una delle rare interviste che concede alla stampa, al microfono di Adriana Fracchia. Abbiamo pensato, per celebrare questa ricorrenza del centenario della nascita di mio Giacomo, i miei figli ed io abbiamo deciso di dare vita alla Fondazione Manzù, e mi piace tanto di aprire le porte del suo studio dove Manzù lavorava. Lo studio privato del maestro è un luogo per me sacro della sua arte e della sua anima, nel quale prima d'ora nessuno poteva accedere all'eccezione dei suoi più stretti collaboratori. E una cosa ci tengo anche a dire, quando Manzù era nel suo studio e lavorava e aveva in mano la sua creta, per lui non esisteva più nessuno. Lui in questo atelier ci ha lavorato in che periodo, in quali anni? Da quando siamo qui, dagli anni 64 fino al 90. Era proprio suo, proprio lui era celosissimo di questo suo studio. Creava le sue capolavori lì dentro, come per esempio la Porta di San Pietro o la Porta di Rotterdam. il monumento, il grande monumento del partigiano che è a Bergamo, insomma tante cose. E poi è anche bello questo, perché abbiamo proprio voluto che lo studio rimanesse come era allora, un unico grande ambiente e con le belle luci, in cui si vedono le tele, le scapelli e tutte le sue attrezzi come lui le ha lasciate 17 anni fa. Come se lui fosse ancora lì. Sì, e pensi che io delle volte vado dentro, quando sento di voler stare con lui da solo, e sento ancora quasi quasi il suo spirito lì. E questa l'intervista di Adriana Fracchia. 13:35 minuti, le notizie di oggi, GR24 Extra Large. O tutti o nessuno, i vertici di Fiat scendono in campo sui sostegni al settore dell'auto, gli aiuti devono essere o per tutti i produttori o per nessuno, dice l'amministratore delegato Marchionne. Ancora qualche ora d'attesa e poi all'Italia di Rassia l'offerta CAI. Il commissario Fantozzi aspetta solo l'autorizzazione del ministro Scajola, oggi soppressi altri 100 voli. Il governo non vara il contestato disegno di legge sulla cosiddetta messa in prova degli incensurati, che cancella anche alcuni reati, elaborato dal ministro della giustizia Alfano. L'ex guardasigilli Clemente Mastella era una mia proposta, ora mi auguro una discussione serena e un accordo. Dove non arrivano le minacce vincono i soldi, a Napoli sequestrati DVD contraffatti del film Gomorra tratto dal libro di Roberto Saviano. La strage di Erba, Zuz Marzouk chiede 2,6 milioni di euro di danni per l'omicidio di moglie e figlio. In aula parla Olindo Romano. Sono 14 milioni pendolari in Italia, racconta il rapporto Legambiente. Per loro 400 milioni di euro di tagli nella finanziaria 2009. Gli scenari della crisi economica prevedono, oltre alle gravi difficoltà delle banche, anche quelle che riguardano i produttori dell'auto. Ieri il cancelliere tedesco Angela Merkel, al vertice italo-tedesco di Trieste, ha detto che se l'America varerà un piano di sostegno per i produttori dell'auto, anche l'Europa non dovrà stare a guardare, la Germania in particolare. Il premier Berlusconi però ha detto che per ora l'Italia non interna intervenire. Così oggi l'amministratore delegato di Fiat Marchionne è intervenuto dicendo: se dovesse intervenire qualcuno per dare sostegno a qualche produttore europeo, sarebbe impossibile escludere gli altri. Salutiamo Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promoter, esperto del mercato dell'auto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo da un dato di fatto. Qual è lo stato di salute del mercato dell'auto italiano? Questi sussidi, questi aiuti, qualora dovessero da qualche parte partire, sono davvero necessari? Lo stato di salute del mercato italiano non era buono prima che si scatenasse la tempesta innescata dal fallimento di Lehman Brothers, perché il mercato era entrato in una situazione di difficoltà fin dall'inizio dell'anno, che poi si è accentuata per la crescita del costo dei carburanti e anche per il rallentamento nella concessione del credito al consumo. Con gli eventi di settembre e di ottobre poi si è abbattuta sul mercato dell'auto un'ondata di sfiducia che ha determinato fiducia del consumatore innanzitutto, che ha determinato un calo molto sensibile in ottobre, e di conseguenza oggi il quadro è negativo, diciamo che è piovuto sul bagnato. Oggi tra l'altro, Quagliano, è intervenuto anche il commissario europeo all'industria Verheugen, ha detto che i problemi che riguardano la Germania, e cioè la Opel, derivano dalla casa madre negli Stati Uniti, quindi in questo caso gli aiuti potrebbero essere considerati aiuti eccezionali e quindi ammissibili. Però che succederebbe con questo scenario? Una diversificazione tra i vari paesi all'interno dell'Europa è possibile? Ma in teoria non è possibile, perché gli aiuti di Stato sono vietati. Già questa dichiarazione su Opel tende a dare un'interpretazione estensiva degli aiuti di Stato. Però io credo che se aiuti dovessero essere adottati negli Stati Uniti, inevitabilmente si dovrebbero adottare in Europa, e direi gli stessi meccanismi, le stesse regole che governano l'Unione Europea imporrebbero che, se si tratta di aiuti di Stato all'industria, come mi pare che è di questo che si parli, dovrebbero essere sostanzialmente uguali in tutta l'Europa, altrimenti ci sarebbero dei grossi problemi con da un lato di concorrenza fra le case aiutate e non aiutate, ma dall'altro proprio con la normativa europea che vieta ai singoli stati di dare aiuti alle loro industrie. Grazie allora a Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promoter. E questo dunque per quanto riguarda l'Europa. C'è poi anche il capitolo americano, ma ne abbiamo parlato ieri. Posizione tedesca cruciale in Europa, cosa succede in Germania? Sentiamo. Nessun altro paese europeo è preoccupato quanto la Germania per il futuro del settore automobilistico. L'auto pesa per il 20% degli occupati e in tutto 7 milioni di persone se si tiene conto dell'indotto. Per ora, tuttavia, il governo federale non vuole ipotizzare un piano di salvataggio nazionale e tantomeno europeo. Sul fronte nazionale il cancelliere Angela Merkel ha paura di provocare distorsioni alla concorrenza. Sul fronte europeo teme di dover pagare per il resto del continente. In questo senso gli eventuali aiuti a Opel sono definiti speciali, legati alla particolare situazione di una società filiale del gruppo americano General Motors. Detto ciò, il cancelliere ha detto di guardare con attenzione a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, dove è in discussione un pacchetto di aiuti. La signora Merkel non vuole che quest'ultimo possa indirettamente danneggiare l'industria tedesca. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Un documentario sulla recente campagna elettorale americana l'ha girato il premio Oscar Barry Levinson al Festival di Marrakech, dove è presidente di giuria. In Marocco lo ha incontrato la nostra Marta Cagnola. Cosa pensa delle accuse di Mills, secondo cui è stato arrestato per aver fumato della marijuana? Beh, sì, è proprio così, l'ho aspirato, perché mi sono detto che diamine, è accesa, ce l'ho in mano, io me la fumo. Non smentisce le accuse? Oh, certo che no, avevo 25 anni, all'epoca mi facevo praticamente di tutto. A 21 sono andato con una prostituta, ho fatto talmente schifo che mi ha ridato i soldi. E se ci fossero altre stupidaggini di cui volete parlare, sono a completa disposizione. Signore e signori, è ora di andare a raccogliere voti, sarà un'esperienza senza eguali, quindi tenetevi forte, gente. Ve lo ricordate? È Robin Williams, improbabile presidente degli Stati Uniti per caso, nell'Uomo dell'Anno, film del 2006 di Barry Levinson, il regista di Rain Man e Sleepers. Quella campagna che portava all'elezione di un comico era tutta immaginaria, ma Levinson ha seguito anche la vera campagna 2008, realizzando il documentario Pollywood. Pollywood is a pure documentary of just following a group of actors that were through the Democratic convention, through the Republican. È un vero documentario, ha spiegato al Festival di Marrakech, di cui è presidente di giuria. Ho seguito un gruppo di attori nella convention democratica e in quella repubblicana, facendoli intervenire sui temi sociali come la sanità o la scuola, filmando soprattutto le reazioni della gente: rabbia, lacrime, speranze, indignazione. Due convention molto molto diverse tra loro. The Obama convention, there was real passion. La convention di Obama, spiega, era la più appassionata. Quella di McCain era simile alla riunione di una società di assicurazioni. Diverso è buono. Quando ti ho conosciuto mi sei piaciuto perché eri diverso, nuovo, certo. I politici di oggi sembrano presi in prestito da un museo delle cere. Tu devi essere diverso. Dopodiché tutto è possibile. Ma Barry Levinson ha trovato qualche similitudine con la sua campagna elettorale dell'Uomo dell'Anno? Well, I mean, that someone basically who came from out of the unknown, in a sense, you know, I mean, even though he was a senator. Si tratta comunque di due personaggi emersi praticamente dal nulla, ha osservato, anche se Obama era già senatore, e sono entrambi forti comunicatori, molto affascinanti. Ho persino trovato in campagna elettorale delle battute del copione, come quella sugli stati che non sono rossi e blu, ma semplicemente Stati Uniti d'America. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:46, GR24 Extra Large. Il governo non vara il contestato disegno di legge sulla cosiddetta messa in prova degli incensurati, che cancella anche alcuni reati, elaborato dal guardasigilli Alfano. È una proposta tutta da esaminare, dice il ministro della difesa. L'ex ministro della giustizia Clemente Mastella a Extra Large: era una mia proposta, ora mi auguro una discussione serena e un accordo. Ancora qualche ora d'attesa e poi l'Italia dirà sì all'offerta CAI. Il commissario Fantozzi aspetta solo l'autorizzazione del ministro Scajola. Oggi soppressi intanto altri 100 voli. O tutti o nessuno. I vertici di Fiat scendono in campo sui sostegni al settore dell'auto. Gli aiuti devono essere o per tutti i produttori o per nessuno, dice l'amministratore delegato Marchionne. Stato e regioni ci lasciano soli, così 14 milioni di pendolari in Italia, raccontati dal rapporto Lega Ambiente. 400 milioni di euro di tagli per loro nella finanziaria 2009. Pendolari dimenticati, dunque, sono, come abbiamo già detto, più volte 14 milioni e per loro le condizioni del trasporto sembrano peggiorare. Ce ne parla la nostra Paola Nania che oggi, buongiorno Paola, ha seguito la presentazione del dossier di Lega Ambiente sui pendolari italiani. Sì, buongiorno a voi. Effettivamente i 14 milioni di pendolari italiani non se la passano bene, ovviamente stiamo usando un eufemismo, non se la passano bene né a nord né a sud, in questo caso l'Italia è perfettamente omogenea. I problemi soprattutto per quei pendolari che usano il treno sono quelli sostanzialmente risaputi, cioè ci sono carrozze e treni vecchi, non sono mai arrivati i 1000 treni, forse ricorderete che erano stati promessi qualche anno fa, ci sono ritardi, ci sono disagi, a cui si aggiunge per il 2009 anche il rischio di vedere soppressi alcuni collegamenti per il taglio che, se approvato, dovrebbe appunto sottrarre al trasporto locale 400 milioni di finanziamenti. Ma sentiamo la testimonianza di Ettore Fittavolini, presente oggi qui alla presentazione del dossier Legambiente. Ettore Fittavolini è un pendolare da 30 anni ed è il presidente del Comitato Pendolari Milano-Piacenza. Sentiamolo. C'è da dire che noi stiamo viaggiando da 30 anni con un lento, costante e continuo peggioramento del servizio ferroviario, che è servizio pubblico. Allora, è peggiorata la qualità del servizio in senso globale, quindi sono aumentati i tempi di percorrenza, è peggiorata, è diventata quasi insufficiente e inesistente la manutenzione dei convogli, poco puliti ma poco manutenuti a livello proprio di efficienza del convoglio stesso per quanto riguarda le parti meccaniche. Aumenti, perché nel contempo, a fronte di un peggioramento, uno si aspetta che le tariffe rimangano invariate, però continuiamo ad avere ritardi che si sommano all'aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Lamentele da nord a sud, dicevi Paola, com'è la mappa dei pendolari? Esatto, dunque sostanzialmente la situazione è omogenea. Il problema di fondo per tutte le regioni è che mancano i soldi, cioè da un lato gli investimenti dello Stato sono bloccati, appunto dicevamo 400 milioni di euro in meno per il 2009, dall'altro tutte le regioni, praticamente tutte le regioni, aggiungono agli stanziamenti centrali cifre irrisorie. In modo particolare la situazione peggiore è di Veneto, Piemonte e Lazio, che praticamente nel bilancio della regionale destinano solo lo 0,02% al trasporto locale. Invece la regione in qualche maniera più eccellente in questa situazione è la Toscana, che usa per il trasporto locale lo 0,38% del bilancio regionale. Stiamo parlando comunque di cifre irrisorie. E davvero sono cifre irrisorie, ma insomma speriamo che in alcuni casi bastino o servano a migliorare la situazione dei pendolari. Grazie alla nostra Paola Nania, grazie, buona giornata. Adesso le notizie dall'estero, almeno in questo segmento di Extra Large, Anna. E andiamo in Medio Oriente. Il presidente eletto americano Barack Obama ha telefonato ieri sera al presidente palestinese Abu Mazen, lo ha rassicurato che farà il massimo per un accordo di pace tra israeliani e palestinesi. Obama sarebbe favorevole al piano di pace arabo formulato dall'Arabia Saudita nel 2002. Già rilanciato nel marzo del 2007 in occasione del vertice arabo di Riyadh, ora insomma torna in campo. Il piano in sostanza prevede la normalizzazione dei rapporti tra stati arabi e Israele in cambio del ritiro israeliano dai territori occupati nel 1967, inclusa Gerusalemme Est. Una telefonata, questa di cui vi abbiamo dato notizia, che sembra una conferma alle previsioni di chi? Dell'ex premier britannico Tony Blair, ricordate, no? Ora è rappresentante speciale del quartetto Stati Uniti, Russia, Unione Europea ed ONU, proprio per la pace in Medio Oriente. Blair, infatti, aveva detto più volte che per quanto riguarda la politica estera tutti i fronti aperti sono influenzati dalla questione israelo-palestinese. Obama se ne occuperà subito, aveva detto Blair con ottimismo. E oggi Blair è a Roma, dove è stato ricevuto proprio dal presidente del Consiglio Berlusconi e dal ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, Suad Al-Faisal. E la nostra finestra la apriamo allora sul mondo arabo. Inserzione pubblicitaria sui giornali come arma strategica per la liberazione della Palestina. È questa l'ultima trovata dell'autorità nazionale palestinese che, secondo quanto rivela Al-Quds Arabi, ha comprato un'intera pagina di 4 dei principali quotidiani israeliani per pubblicare il testo integrale dell'iniziativa araba per siglare una pace definitiva con lo Stato ebraico. Sotto la bandiera israeliana e palestinese, corredati dai vessilli di 57 stati islamici arabi che hanno sottoscritto il piano, i lettori israeliani leggeranno domani a titoli capitali: accordo di pace globale in cambio di ritiro totale dai confini del 67. Sotto, un invito firmato da Abu Mazen a leggere bene il testo e fare pressioni sui propri governanti per accettarlo. per non perdere un'occasione storica. I promotori anticipano che, viste le incoraggianti premesse con la vittoria di Obama, l'idea sarà replicata sui maggiori quotidiani USA. È una vergognosa richiesta di elemosina, ha titolato subito lo stesso giornale che pubblica la notizia. Adil Fatahali, GR24, Sole 24 Ore. Sono le 13.52 di mercoledì, adesso si apre il nostro spazio sulle notizie di gossip. Essendo indubitabilmente la regina del gossip degli ultimi mesi, l'onore di aprire le indiscrezioni odierne spetta certamente a lei, a Madonna. Dopo voci e smentite continue nella seconda parte dell'anno corrente sul suo imminente divorzio con il marito, divorzio ormai divenuto, diciamo così, operativo, ora inizia il tira e molla su chi sia o non sia il suo nuovo compagno. Quando ancora la Material Girl e suo marito Guy Ritchie, vi ricordate, smentivano l'irreversibile crisi coniugale, si mormorava che l'amante della pop star fosse il supercampione di baseball Alex Rodriguez. Quando poi Madonna e Ricci hanno confermato il collasso definitivo ormai del loro matrimonio, i giornali hanno addirittura scritto che Madonna ha chiesto al leitante sportivo, peraltro sposato e con figli a sua volta, di sottoporsi a un test per verificare le sue potenzialità di padre. Ma ora, colpo di scena, la star del baseball durante un evento mondano di questi giorni ha detto testualmente: non sono il fidanzato di Madonna. E sì, che proprio nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia di una serata organizzata dalla popstar da Madonna per presentare il giocatore di baseball ai suoi amici, quindi ufficializzarne, diciamo, la liaison. Ma del resto, come potrebbe altrimenti alimentarsi il gossip senza tutte le stramberie dei VIPs, le dichiarazioni eclatanti, le rimangiate delle dichiarazioni stesse, i vai e vieni, tira e molla, eccetera, eccetera? E un altro che davvero non si fa mancare niente nelle sue peculiari e stralunate manie di grandezza è sicuramente Tom Cruise. La star di Hollywood è convinta che la figlioletta Suri, di appena 2 anni 2, possa avere un futuro, pensate, come campionessa olimpica e vincere addirittura la medaglia d'oro. Quella piccola creatura che al massimo può gareggiare per il ciuccio d'oro, per il pannolino più carico di... Insomma, un attimo, diamole il tempo di crescere e diventare se stessa. L'attore invece pensa che la bimba abbia delle grosse potenzialità nell'atletica e ne è talmente convinto che ha speso ben $7,000 per far installare una palestra nel suo nuovo appartamento di Manhattan, a New York, per preparare la bimba ai futuri successi. Ma si sa che Cruise è fissato con le Mission Impossible. Ma chi potrebbe aver perso realmente il senso della misura, quantomeno il conto dei suoi pargoli, è Angelina Jolie. La bellissima di Hollywood probabilmente mira all'ingresso trionfale nel Guinness dei primati, viene da pensare, non per la sua abbagliante bellezza, ma perché sembra approssimarsi ad essere mamma per l'ennesima volta. E a proposito di dichiarazioni e smentite di cui parlavamo prima, solo pochi giorni fa ella aveva dichiarato di essere stanca di dividersi tra sé e la famiglia assai numerosa, prevedeva di prendersi per questo una pausa dal cinema. Ora però arriva la notizia bomba: Angelina Jolie sarebbe nuovamente incinta. Quindi, dopo 3 figli adottivi e poi la piccola Shiloh Nouvelle avuta con il marito Brad Pitt, così come 2 gemellini venuti al mondo assai di recente, se arrivasse nuovamente la cicogna sarebbero, dunque facendo un rapido calcolo, 7 figli 7. E che dice papà Brad? Qualcuno afferma che comincia ad accusare un po' la fatica di tanti bebè da tenere d'occhio. Ma non ti perdere d'animo, caro Brad, vista la vivacità un po' compulsiva, devo dire la verità, di Angelina Jolie, potrebbe non essere finita qua. E a questo punto Roberta Giordano si ferma qui e col gossip vi dà appuntamento al prossimo mercoledì. Ok del commissario Fantozzi, Scajola invece mantiene la riserva. È arrivato il primo sì al piano CAI per la nuova Alitalia, ma la scelta del partner straniero potrebbe arrivare alla fine dell'anno. Spazzino invece che in cella, ma il disegno di legge per i lavori socialmente utili non piace ad AN Lega, frenata in Consiglio dei Ministri. Mastella extra large, era una proposta mia, spero in un accordo. Domani il giorno delle dimissioni di Villari dalla Commissione Vigilanza RAI, promette il Partito Democratico, lui tace e a mettere pace ci prova anche Fini. Ora la Camorra vuole guadagnarci, dopo le minacce a Saviano, a Napoli sequestrati dividi contraffatti del film Gomorra. Aiuti all'auto per tutti o per nessuno, l'amministratore delegato di Fiat Marchionne, dopo la Merkel, non si crei un dislivello tra l'America e l'Europa. 14 milioni pendolari in Italia, Stato e Regioni ci lasciano soli, dicono Veneto, Piemonte e Lazio, quelle che fanno meno investimenti, la migliore, la Toscana. GR Extra Large, Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio. È tutto per questa edizione, con il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Fabio Cantadori. Appuntamento per domani, come sempre, dalle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.